Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. I tumori gastrointestinali, in particolare di pancreas, stomaco e spesso anche del colon retto, a causa dei sintomi aspecifici, vengono quasi sempre diagnosticati quando ormai la malattia è già in fase avanzata. A richiamare l'attenzione su questa grave situazione è l'impegno di un gruppo di lavoro nato dalla collaborazione tra Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, le principali associazioni di pazienti e l'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. In linea con noi abbiamo il professor Nicola Silvestris, che è membro del Consiglio Direttivo Nazionale AIOM e associato di Oncologia Medica all'Istituto dei tumori Giovanni Paolo II di Bari. Queste sono neoplasie insidiose, nel senso che danno segno di sé tardivamente. I sintomi che spesso e volentieri ci raccontano i nostri pazienti quando arrivano alla nostra osservazione parlano di sintomi inizialmente misconosciuti, in quanto facilmente confondibili o attribuibili a cause non oncologiche, per cui, non potendo in molti casi fare diagnosi precoce, la raccomandazione che più di tutte possiamo fare a ciascuno di noi, a ciascun ascoltatore, è quello di prestare particolare attenzione alla prevenzione primaria di questi tumori e pertanto dei corretti stili di vita. Professore, quali sono le novità nello scenario terapeutico in grado di soddisfare questo bisogno? Oggi parliamo di medicina di precisione. Che cosa intendiamo? Intendiamo che dietro la parola carcinoma gastrico, carcinoma del pancreas, esistono tanti gruppi molto più piccoli di tumori che tutti rientrano nel grande capitolo del carcinoma gastrico, ma che si caratterizzano per alterazioni genetiche e molecolari specifiche. Le conoscenze attuali di queste alterazioni stanno consentendo ai ricercatori e clinici di andare a cercare e individuare delle terapie mirate verso questi bersagli. Non dimentichiamo che quando abbiamo di fronte una persona che nella propria vita ha incontrato una neoplasia gastrica avanzata, l'obiettivo non può essere spesso e volentieri la guarigione, ma è certamente la cura, intesa come presa in carico globale del paziente, con due obiettivi: il miglioramento della sopravvivenza, garantendo una buona qualità della vita. E io ricordo che per garantire una buona qualità della vita è opportuno iniziare precocemente le terapie di supporto, e tra queste mi piace sottolineare l'attenzione sull'aspetto nutrizionale. Guardi, nel momento in cui uno di noi incontra questa diagnosi è come se deve iniziare una scalata, una dopo l'altra. Spesso alla fine della prima arrampicata ci si trova di fronte alla necessità di farne una seconda. E pertanto è necessario essere nelle condizioni di ripartire, quindi di affrontare delle nuove terapie. Grazie professor Silvestris per essere stato con noi. Per oggi è tutto, vi aspetto come sempre sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per il nostro consueto appuntamento con l'esperto del giorno. Protagonista del nostro incontro è il dottor Roberto Leo, responsabile della struttura semplice di chirurgia di gomito e spalla al Gaetano Pini CTO di Milano, con cui parleremo del gomito del tennista, il cui nome scientifico è epicondilite, per cercare e di capire come prevenirla, come affrontarla e per parlare anche delle novità nel caso fosse necessario l'intervento chirurgico. Vi aspetto, non mancate. Una buona giornata da Nicoletta.